10 dicembre 1945. Il nuovo presidente del Consiglio è Alcide De Gasperi. Si accende il dibattito sulla sorte della monarchia. Chi deciderà la nuova forma dello Stato italiano? L'Assemblea Costituente o direttamente il popolo attraverso un referendum? Gli americani, tramite Ellery Stone, il capo della commissione alleata di controllo, insistono per un referendum. I partiti di sinistra sono contrari. 27 febbraio 1946. Al Consiglio dei Ministri, De Gasperi propone un referendum istituzionale da tenersi lo stesso giorno delle elezioni per l'Assemblea Costituente. La proposta è accettata. La decisione viene formalizzata con decreto luogotenenziale il 16 marzo. La data delle elezioni è fissata per domenica 2 giugno 1946. Dunque l'Italia è chiamata a votare tra monarchia e repubblica il 2 giugno 1946. Da quel momento i due schieramenti si preparano alla battaglia per quella che sarà la votazione decisiva per il futuro dell'Italia. Socialisti, comunisti, repubblicani e azionisti sono per la Repubblica. A favore della monarchia si schierano liberali, monarchici e qualunquisti. Si profila uno scontro frontale. De Gasperi è prudente, diplomatico, anche perché è lui a dover gestire il difficile passaggio. Napoli, 9 maggio. Vittorio Emanuele III firma l'atto di abdicazione in favore del figlio Umberto, che diventa re d'Italia con il nome di Umberto II. Le forze repubblicane accusano la monarchia di violare la tregua istituzionale. Venerdì 31 maggio, la campagna elettorale si conclude con imponenti comizi in tutte le più importanti città italiane. 2 e 3 giugno, l'Italia è al voto. Il clima è di attesa e tensione. Il piano per l'ordine pubblico affrontato dal ministro dell'Interno, il socialista Giuseppe Romita, è accurato, efficiente. Alle forze dell'ordine, il governo affianca i reparti dell'esercito e dispone che unità di fede monarchica presidino zone a prevalenza repubblicana e viceversa. L'Italia uscita dalla guerra è un'enorme polveriera. Non tutte le armi delle formazioni partigiane del centro-nord sono state consegnate. Truppe alleate controllano gran parte del territorio nazionale. L'esercito è ancora legato al giuramento di fedeltà alla corona, così come i carabinieri. Basta una scintilla perché esploda una guerra civile. Ore 14 di lunedì 3 giugno. Si chiudono i seggi. L'Italia ha votato. Dunque alle 14 del 3 giugno del 46 le votazioni sono concluse e l'Italia ha votato. Professor Sabatucci, la monarchia, secondo lei, che atteggiamento ha tenuto durante la campagna elettorale? Ha cercato di recuperare, trovandosi in una situazione che chiaramente era difficile, era di svantaggio. A partire dall'abdicazione di Vittorio Emanuele III, il tentativo è stato quello di dare alla monarchia un volto diverso, più giovane e forse anche più democratico. Umberto, i bambini, la moglie forse antifascista, che forse votava per Saragat, insomma. L'idea c'erano di dare degli elementi di difesa. Sì, sì, certo. Ecco, ma è vero che in Savoia volevano il referendum perché erano sicuri di vincerlo? Sicuri non potevano esserlo neanche loro. Certo, col referendum avevano qualche chance. Se la decisione fosse stata affidata alla Costituente, come diceva il famoso decreto del 25 giugno 1944, perché questo stabiliva in realtà, poi il referendum fu introdotto dopo, se la decisione fosse stata affidata alla Costituente non avrebbe avuto la minima speranza. Col voto popolare c'era una possibilità. Ma intanto torniamo a quelle ore così decisive per la storia del nostro paese. Sono le 17 di mercoledì 5 giugno 1946. Roma, mercoledì 5 giugno 1946, ore 17. In una affollata conferenza stampa, il ministro dell'Interno Romita comunica i dati del referendum. Delle 35.000 sezioni elettorali sparse sul territorio nazionale, restano da scrutinare solo 1.200. I risultati provvisori non lasciano più margini ai dubbi. 12.182.155 voti alla Repubblica, 10.362.709 alla Monarchia. Dunque, questi sono i risultati. A dare queste cifre, 51 ore dopo la chiusura dei seggi, è il ministro degli Interni Giuseppe Romita. Ma per capire come si arriva a questi dati, bisogna fare ancora un passo indietro. È lunedì 3 giugno, le urne sono chiuse e i primi risultati incominciano ad affluire al Viminale. Lunedì 3 giugno 1946, ore 14, si chiudono le urne. Nella stessa notte del 3, i primi dati cominciano ad affluire al Viminale, che all'epoca è la sede del governo.

Le sezioni scrutinate a sud sono sottorappresentate, 0 in Campania, 0 in Lucania, 90 in Calabria, 105 in Sicilia, 28 in Puglia. Ma allora come mai Romita sbaglia a collocare quell'episodio del sorpasso della Repubblica sulla monarchia in maniera così clamorosa la notte del 4 giugno, anziché la notte del 5? Con questo interrogativo riprendiamo dopo la pubblicità. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando la storia della nascita della Repubblica Italiana dopo il referendum del 46. Giuseppe Romita, nei suoi diari pubblicati nel 1959, spiega la sua ansia per il sopraggiungere dei primi dati scrutinati che vedono la monarchia in vantaggio, poi la notte del 4 giugno il sorpasso. Ma dalle testimonianze raccolte c'è un errore di data. Ne parlano Franco Malnati, storico di Casa Savoia, Francesco Perfetti dell'Università Luis di Roma e Aldo Ricci dell'Archivio Centrale dello Stato. Questo è una retrodatazione volontaria apposta da Romita allorché scrisse il libro nel 1959, ossia 13 anni dopo i fatti, allo scopo evidente, che poi è dimostrabile in mille modi, di non far intendere al lettore che questo sorpasso si verificò non all'inizio dello scrutinio, ossia nella notte fra il 3 e il 4, bensì proprio alla fine dello scrutinio, quando oramai non era più modificabile, e d'altronde no, altrimenti non si spiegherebbe la sua disperazione per un risultato oramai quasi definitivo. Mi pare che le argomentazioni di Malnati siano abbastanza convincenti. È una retrodatazione che tutto sommato serviva appunto a giustificare, come dire, il capovolgimento. Lo spostamento appunto a favore della monarchia avvenne sostanzialmente nelle ore successive, nelle ore immediatamente successive. E questo fatto ha creato una serie, come dire, di ipotesi sulla possibilità di manipolazione appunto dei dati. Se fosse vera questa ipotesi, bisognerebbe mettere in conto naturalmente che fossero avvenuti fatti che noi non conosciamo, ma che in qualche modo avrebbero stravolto il risultato. Allora, professor Sabatucci, c'è qualcosa che noi non sappiamo? Ma c'è sempre qualcosa che noi non sappiamo in vicende di questo genere. Certo. Devo dire che non capisco perché Romita avrebbe dovuto volontariamente mentire. Ecco, ma è credibile, mettiamola così, è credibile che Romita abbia commesso un errore così credibile, così clamoroso nelle sue memorie? È strano, è strano, ma non riesco a vedere il movente della manipolazione nel senso del falso scritto nelle sue memorie, che tra l'altro appaiono a più di 10 anni di distanza dai fatti. Se avesse retrodatato scientemente il momento della prevalenza della monarchia, sì, si sarebbe dato forse la zappa sui piedi Romita, perché avrebbe avuto in questo modo, nella ricostruzione dei suoi critici, sì, più tempo per intervenire. Che lui sia intervenuto, che abbia fatto arrivare una valanga di voti repubblicani nel giro di poche quindi ore, lei non ci crede. Francamente, ecco, mi però, sembra incredibile. Ecco, comunque in quelle ore convulse non era solo Romita a temere o a essere convinto che avrebbe vinto la monarchia. A riferirlo ancora una volta è un testimone di quell'epoca, Massimo Caprara. I comunisti erano convinti che la Repubblica non vincesse. Comunisti, Romita, ministro dell'interno, Togliatti, Nenni,

a ritirare fuori la questione della monarchia repubblica è stato il segretario di Togliatti, Massimo Caprara. Ecco, noi preparando questa puntata, effettivamente abbiamo avuto un po' l'impressione che la storiografia ufficiale si sia occupata poco e anche male di un tema così importante, così fondante della nostra storia. È così oppure abbiamo avuto un'impressione sbagliata? Ma in effetti forse se ne è occupata meno di quanto l'importanza del tema avrebbe meritato. E perché secondo lei? Anche perché ci mancano le fonti, cioè nessuno potrà mai andare a rifare quello scrutinio. In mancanza di questo, perché le schede sono state distrutte, perché ovviamente non si possono poi tenere le schede di una consultazione per decenni, forse furono distrutte un po' rapidamente. Però in assenza di questo noi non possiamo che lavorare sulle ipotesi più o meno fantasiose. Quindi non c'è una responsabilità degli storici, secondo me? Ma direi di no. Senta, comunque torniamo a quei giorni. Siamo rimasti al 5 giugno alla conferenza stampa in cui il ministro degli interni Romita legge il numero dei voti a favore della Repubblica, lo ripeto, 12 milioni e 10 per la monarchia. Poche ore dopo il presidente del Consiglio De Gasperi sale al Quirinale da re Umberto II, l'incontro è un incontro sereno, così si dice, i Savoia sembrano pronti ad accettare comunque il verdetto delle urne. Due giorni dopo però, colpo di scena. Venerdì 7 giugno. Al mattino, Alcide De Gasperi viene informato che un gruppo di giuristi di Padova ha annunciato un ricorso contro l'esito del referendum. La loro tesi è che i dati forniti da Romita non debbano essere considerati conclusivi. Non appaiono i voti nulli, i voti annullati, le schede bianche. Appaiono soltanto i voti validi attribuiti alla monarchia e alla repubblica. La legge sul referendum prevede infatti che i risultati debbano essere calcolati in base alla maggioranza degli elettori votanti. Romita invece si è limitato a fornire le cifre dei soli voti validi attribuiti alla repubblica e alla monarchia. Dunque nel giro di poche ore tutto è di nuovo rimesso in gioco, anche perché, lo abbiamo detto, il Ministero degli Interni non ha fornito la cifra totale dei votanti e per vincere il referendum non bastava prendere più voti dell'avversario, bensì occorreva superare il 50% del totale di tutti i voti espressi. Ecco, professore, ci spiega il senso di questa legge? Beh, sicuramente era una formulazione infelice e forse in modo non innocente. Nel famoso decreto luogotenenziale del 16 marzo si era aggiunta questa paroletta: se la Repubblica otterrà la maggioranza degli elettori, sarebbe bastato elettori, e si aggiunse votanti. In questo modo si creava una indubbia condizione di vantaggio per la monarchia, nel senso che si imponeva alla Repubblica per vincere non di avere più voti della monarchia, ma di raggiungere una qualche maggioranza qualificata, avvantaggiando così la monarchia che altrimenti sarebbe rimasta. E da un punto di vista formale è un fatto che si dovevano calcolare tutti nel tutti totale i voti, anche le schede nulle, anche le schede nulle, e invece queste schede nulle, queste schede bianche non furono nemmeno contate. Comunque, mentre cominciano a fiorare polemiche e dubbi, una sola cosa è certa: bisogna aspettare il verdetto finale della Cassazione, l'unico organo titolato alla proclamazione ufficiale dell'esito del referendum. A questo punto si apre un braccio di ferro politico e De Gasperi torna al Quirinale. Lunedì 10 giugno, ore 19. De Gasperi sale al Quirinale. Per il governo il passaggio dei poteri dal re al presidente del Consiglio è automatico. Ma Umberto II si oppone. Per lui i dati sono ancora provvisori. Tutt'al più può delegare i suoi poteri a De Gasperi fino al pronunciamento definitivo della Cassazione. De Gasperi convoca il Consiglio dei Ministri. La proposta di Umberto II viene respinta. Tutti, a parte i liberali, sono per un passaggio dei poteri immediato. Ma re Umberto poteva davvero bloccare la nascita della Repubblica? Il re aveva certamente ragione ad opporsi al passaggio di poteri al Presidente del Consiglio come capo provvisorio dello Stato prima che giungesse la proclamazione ufficiale e definitiva da parte della Corte di Cassazione, perché la prima pronuncia della Corte di Cassazione il 10 giugno era una pronunzia incompleta, una pronunzia, come disse Umberto a De Gasperi, provvisoria, perché non riportava appunto quanto previsto dalla legge. Martedì 11 giugno, ore 12, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Per uscire dall'impasse, nell'attesa del pronunciamento definitivo della Cassazione sui ricorsi del referendum, il Consiglio dei Ministri tenta una mediazione. Un nuovo piano prevede l'autonoma assunzione di poteri da parte del governo e al tempo stesso una delega del sovrano. Ma le cose si complicano. Togliatti dice: alcuni ricorsi possono richiedere l'esame delle schede che forse sono già state distrutte. Professore, quando e perché furono distrutte le schede del referendum? Furono distrutte quasi subito, dobbiamo ricordare una cosa. Primo, che non c'erano grandi precedenti, soprattutto di conservazione di questi materiali. Non si sapeva che fare. Era normale. In quelle condizioni, poi, l'idea che si dovessero stivare migliaia di metri cubi di carta per andarli poi a ricontrollare, forse Senta, non ma era... Ma chi è che diede l'ordine di distruggerle? Non ne ho la minima non idea, anche perché non tutte e non nello stesso momento furono distrutte. In alcuni collegi non si riuscirono più a ritrovare. Cioè, il problema del calcolo delle schede nulle e delle schede bianche era reso impossibile proprio da questa dalla distruzione rapida in alcuni casi e non in altri. Non si sa voluta da chi. Non si sa assolutamente. Insomma, almeno io non lo so. Qualcosa di un po' sospettino lì ci potrebbe essere. È possibile, anche perché su questa faccenda delle schede nulle e delle schede bianche poi alla fine si giocò la partita finale. Quella era la differenza. Il problema della... di come fare il quorum. Perché Pagano non poteva dire ha vinto la Repubblica? Perché non sapeva quanti erano. Ecco perché forse Togliatti gli aveva detto... Calma. Esatto, perché Togliatti sapeva un'altra cosa però, che intanto erano stati proclamati i numeri ottenuti dalla monarchia e dalla Repubblica, con un margine di quel genere, di 2 milioni. Si sentiva... La Repubblica aveva in effetti vinto e provare a capovolgere quel verdetto in base a una specie di cavillo giuridico sarebbe stato estremamente rischioso. Senta, ma in questo braccio di ferro tra Casa Savoia e De Gasperi che vediamo, c'è... un fondamento giuridico però per opporsi al passaggio dei poteri a De Gasperi? Assolutamente sì, in questo sono d'accordo con quanto ha detto Perfetti. Il re aveva da un punto di vista giuridico perfettamente ragione di voler aspettare, da un punto di vista politico, sostanziale, De Gasperi aveva anche lui le sue ragioni e forse migliori. Ripeto, tenere il paese in una condizione di sospensione, sapendo che i numeri davano ragione e con un margine decisamente netto alla Repubblica, avrebbe significato sicuramente il caos. Torniamo a quelle ore, sono circa le 9 di sera dell'11 giugno del 46, De Gasperi invita Re Umberto a non fare passi falsi che danneggerebbero, a suo dire, la dinastia. Martedì 11 giugno, ore 21, De Gasperi telefona al Quirinale, il re non c'è. Si teme un colpo di mano dei monarchici. I ministri e il presidente del Consiglio sono molto preoccupati. Inizia una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. La tensione è altissima. Interviene Togliatti. Se non deliberiamo subito, potrebbe verificarsi che il re formi un altro governo. E in tal caso due sono le ipotesi. O accettiamo oppure ci schieriamo contro. O chinare il capo al re o guerra civile. Mario Scelba, ministro delle Poste, trova intollerabile che il presidente del Consiglio si rechi in visita da quello che considera ormai un privato cittadino. La maggioranza chiede che il capo del governo assuma immediatamente tutti i poteri. Da un punto di vista politico è comprensibile che il governo sostanzialmente repubblicano, anzi dichiaratamente repubblicano, tendesse ad accelerare i tempi e dire, lasciamo stare le questioni di forma, pensiamo alla sostanza. Nella notte, Romita riferisce a De Gasperi delle violente manifestazioni in corso in diverse città italiane. 4 morti a Napoli, scontri a Bari e a Taranto. Mercoledì 12 giugno, ore 11. Umberto II scrive a De Gasperi. Il re ribadisce di non essere intenzionato a firmare nessuna delega fino al pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione sui risultati del referendum. Dunque Re Umberto non è disposto a cedere, non è disposto a concedere le deleghe a De Gasperi fino a quando la Cassazione non avrà detto la parola definitiva sui ricorsi.

Grazie.